Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come da qualche anno a questa parte facciamo il punto sull'Internet of Things, l'Internet delle cose, a partire dal rapporto stilato e pubblicato puntualmente dall'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. Ricordo agli ascoltatori che parliamo di un fenomeno con ricadute molto ampie, ovvero del fatto che sempre più oggetti, non solo le persone, sono connessi per le più svariate ragioni alla rete. Rete sulla quale riversano enormi quantità di dati e da cui possono anche ricevere istruzioni. Parliamo di automobili, lampioni della luce, contatori dell'energia elettrica, centraline per la misurazione degli inquinanti e così via. Oltre naturalmente a tutti i dispositivi che la connessione internet ce l'hanno nel sangue, insomma come computer, smartphone, tablet, insomma uno scenario complesso, variegato, di cui parliamo con Giovanni Miragliotta, responsabile della ricerca dell'Osservatorio Internet of Things. Buonasera Miragliotta. Buonasera a lei Maurizio. Allora, com'è andato nel 2014 il mercato dell'Internet of Things? Partiamo dagli economics. Il mercato Internet of Things Italia scoppia di salute. Nel 2014, misurato sulla variabile che è più facilmente intercettabile, quindi gli oggetti connessi attraverso rete cellulare, il mercato ha fatto segnare un più 33% a volume sull'anno precedente, passando da 6 milioni di oggetti connessi a 8 milioni alla fine dell'anno. Questa numerica in termini di connessione ha poi una ripercussione dal punto di vista del fatturato, sì, quindi del valore creato, che passa a oltre 1 miliardo 150 milioni, anche qui siamo al più 30%, quindi è un mercato che è in piena salute, ma come diceva lei stesso non potrebbe che essere diversamente a fronte di un'ampiezza del paradigma IoT, certo, e delle sue applicazioni davvero sterminata. Dicevamo 8 milioni quindi gli oggetti collegati con la rete telefonica mobile, che tipo di oggetti sono? Per circa il 50% sono rappresentati da automobili, nelle quali vengono implementate funzionalità di localizzazione a finalità appunto di adattamento premi assicurativi, esattamente. Dopodiché vi sono comunque un numero molto elevato di oggetti, 1,7 milioni di oggetti circa, quindi quasi il 20% degli oggetti, che fanno riferimento a applicazioni di gestione dell'asset intelligente, metering, come dicevi quindi, anche tu prima. Contatori, centraline varie, piuttosto che non un peso altrettanto rilevante, la parte home and building, che se lo guardiamo non a volume di SIM connessi, ma a livello di mercato fa quasi un 23%, e questo perché anche rimanendo su reti tradizionali come quelle cellulari, il controllo in remoto di impianti di climatizzazione, riscaldamento, videosorveglianza, antintrusione, ecco, sono comunque applicazioni molto molto diffuse. Ecco, quindi sta crescendo molto questo settore cosiddetto della smart home, della casa intelligente, se vogliamo della domotica. Si vedono i numeri, perché se ne parla da tanti anni di questa casa intelligente. Sì, e ci sono altri segnali positivi. In primo luogo, all'interno della casa si connettono oggetti anche con tecnologie diverse dalla tecnologia cellulare, come ad esempio, già per citarne qualcuno, il Wi-Fi, il Bluetooth. Quest'anno per la prima volta abbiamo provato a stimare anche il mercato di queste soluzioni, sì, tipicamente più difficile da intercettare, e sono emersi altri 400 milioni di euro, quindi un totale del mercato IoT Italia di poco superiore al 1,5 miliardi, di cui, di questi 400 milioni, una parte significativa nella casa. Okay. Sempre nella casa ci sono dei movimenti di mercato molto interessanti, i grandi player, Apple piuttosto che non Samsung, piuttosto che non Google, che si sono avvicinati con le loro proposte cercando di creare una maggiore interoperabilità tra i dispositivi, di modo tale che il singolo utente non debba poi connettere, comprare tutti gli oggetti della stessa serie, per capirsi, no? Insomma, possano parlare una lavatrice di un produttore con una centralina di controllo di un altro produttore di tecnologia. Questo è un po' il punto. Abbiamo parlato soprattutto di oggetti attivi, cioè che sono in grado di comunicare, ricevere informazioni e mandare informazioni. Poi ci sono tanti oggetti intelligenti che sono passivi, che però si stanno diffondendo anche questi in gran numero. È corretto. Gli oggetti intelligenti hanno ognuno il livello di intelligenza che serve per, certo, una particolare applicazione. Facciamo un esempio, prendiamo un tema che adesso ha molta attualità, il tema dell'agricoltura, anche perché è il cuore dell'Expo che stiamo ospitando. Nell'agricoltura esistono degli oggetti intelligenti di tipo passivo che possono essere tag piuttosto che non puntatori di tipo grafico, ottico, bidimensionale. Sono delle etichette, sostanzialmente. Etichette che consentono di acquisire informazioni o di seguire il percorso logistico di un oggetto. In quel caso, quindi, l'applicazione è volta a prevalentemente ad acquisire informazioni o poter leggere informazioni che sono depositate altrove. Ecco, per esempio, io, come dire, prendo una confezione di insalata e questo potrebbe contenere un chip che mi dice dove è stata coltivata e qual è stata la catena di trasporto, se la catena del freddo è stata rispettata, informazioni di questo tipo. Di questo giusto? Tipo, oltre che informazioni utili per la fruizione del prodotto, quantità e allergeni di diverso tipo. Va bene, grazie Miragliotta. Grazie a lei. Ci fermiamo qui e ci risentiamo come sempre domani alla stessa ora.